vita stasera. Dammi una mano a faie di desì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che c'hai, e un friccico di luna tutto per noi. Fai e senti che quasi primavera, dai li meglio grilli per fa cri cri. Presta merponentino più malandrino che c'hai, Roma recci mermoccolo stasera. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fammi di no. Spegni tutte le stelle più brillarelle che c'hai, nascondeme la luna sinno so qua. Fammi scorda che quasi primavera, tiemme una mano in testa per dirte no. Smorza quel venticello stuzzicarello che c'hai, Roma non fa la stupida stasera. Scorda che è quasi primavera, tiemme la mano in testa per dite no. Smorza quel venticello stuzzicarello che c'hai, Roma non fa la stupida stasera. La stupida stasera, Roma non fa la stupida stasera.